nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuna è Perfetta, la trasmissione dell'altra domenica di Radio 24. Lo sapete, ogni settimana qui si parla di lavoro, di problemi connessi alla vita di ufficio, tenendo presente sempre un punto di vista che in generale viene poco considerato, vale a dire quello delle donne che in questi uffici, in questi contesti lavorano. E lo facciamo senza sconti, senza lamentazioni, perché, come da titolo del nostro programma, nessuna è perfetta. Tantomeno pretendiamo di esserlo noi donne. Ci piacerebbe parlare di noi al di là dei luoghi comuni. E un luogo comune molto diffuso sostiene che le donne siano in generale più oneste. Citatissima in questo senso è la frase pronunciata da Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internazionale, quando nel 2008 ci fu la famosa crisi economica. Christine Lagarde disse: se Lehman Brothers si fosse chiamata Lehman Sisters, forse le cose sarebbero andate in modo diverso. Ma è davvero così? Davvero le donne sono più oneste? Oppure, per citare un antico adagio, se l'occasione fa l'uomo ladro, di donne ladre ce ne sono di meno perché hanno avuto meno occasioni di rubare? Di tutto questo parleremo oggi in una puntata che è stata registrata prima che il caso politico del momento, le dimissioni della ministra dello sviluppo economico Federica Guidi, riproponesse una volta di più l'intreccio tra politica e affari di famiglia. Del caso Federica Guidi nella puntata di questa domenica non parleremo, proprio perché i nostri ospiti sono stati con noi prima che il caso si proponesse all'attenzione dell'opinione pubblica. Ma se li ascolterete vedrete che le loro osservazioni e i loro commenti sembrano quasi preveggenti e purtroppo hanno un valore che prescinde dall'attualità. Le donne si fanno corrompere meno, questo è il luogo comune e devo dire anche una mia personale convinzione, se non che poi si va a vedere la cronaca delle ultime settimane e c'è Antonella Croglianò, la dama nera degli appalti dell'ANAS, o c'è Maria Paola Canegarati, la zarina delle dentiere, inchiesta legata alla sanità in Lombardia, o ancora c'è Rosa Di Maddaloni, Rosa De Lucia, 38 anni, ingegnere, volto vincente di Forza Italia e sotto inchiesta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere perché è appunto accusata di prendere piccole tangenti per appalti, naturalmente gli appalti che sono la chiave di mezza vita di questo paese. Oppure ancora Silvana Saguto, magistrato, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale a Palermo. Sono tutte donne, sono tutte sotto inchiesta e per carità vale per tutte loro, come per tutti, la presunzione di innocenza fino alla sentenza. E però, allora cominciamo a chiederci se il luogo comune secondo il quale le donne delinquono meno non sia appunto un luogo comune. Voglio proprio sapere che cosa pensa di tutto questo l'agente provocatore di questa domenica, Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Benvenuto, buona domenica. Ma anzitutto Buongiorno. Il problema è molto semplice. La cronaca dell'ultimo periodo ci sta svelando un fenomeno che finora non era stato intercettato né dai giornali né dalle inchieste giudiziarie, e cioè i casi più importanti di corruzione o di malaffare individuati dalla magistratura hanno sempre dei protagonisti femminili. E non sono dei protagonisti femminili con ruoli subalterni, con ruoli ancellari, come avveniva nella vecchia Mani Pulite, ma sono invece le figure che creano o arbitrano, sono le protagoniste, i primi attori di questo sistema di corruzione o malaffare. Parliamo di indagini in fase preliminare, quindi indagini che dovranno essere provate, ma in alcuni casi ci sono le confessioni dei personaggi, che si tratti della cosiddetta dama nera dell'ANAS o che si tratti di quella che è stata ribattezzata Lady Dentiera, perché l'attività era essenzialmente, ecco, nel campo. Fermiamoci a questi due casi. Perché secondo te sono loro le registe? Perché hanno messo su un sistema corruttivo, secondo appunto quanto sostengono i giudici? Siamo sempre ovviamente sul condizionale. Sì, sono loro che autonomamente, nel caso della Lady Dentiera, per imporre le sue attività quando c'è stata la crisi, uno dei primi settori che ha sentito la crisi è quello di tutto ciò che è legato alla salute dei denti. Allora lei che cosa ha fatto? Ha trovato queste convenzioni con gli ospedali pubblici lombardi, convenzioni che, stando all'accusa, sono state ottenute pagando tangenti che permettevano di offrire un servizio convenzionato negli ospedali pubblici. Così come ancora più interessante nell'esame della situazione femminile, la cosiddetta dama nera dell'ANAS, che è entrata in ANAS a solo 19 anni prima di essersi laureata e poi ha fatto tutta la carriera interna fino ad arrivare a sfiorare l'incarico che l'avrebbe resa arbitro di tutti gli appalti stradali dell'intera Italia, da Bolzano alla Sicilia. Lei ha detto che praticamente le tangenti hanno un'unica strada, muoversi attraverso i politici e le tangenti, però era lei che le chiedeva, che le gestiva. Ci sono quelle telefonate in cui parlava di ciliegie smozzicate perché gli era stata consegnata solo una vata delle tangenti, ed era lei che gestiva il sistema, non era il tramite di qualchedun altro, la segretaria di qualchedun altro, l'amante di qualchedun altro. Ecco, tutte le figure che la Mani Pulite del 92 ci aveva mostrato, le segretarie, le mogli, le amanti, sono spazzate via. Queste sono donne protagoniste, donne anche, che ottengono posizioni, sì, chiave. Anche colpisce, no, la dimensione anche piccola delle tangenti. Per esempio Rosa Di Maddaloni, che è una 38enne ingegnere, quindi una donna giovane, volto vincente di Forza Italia, prima cittadina di Maddaloni, qui si parla di tangenti fino a 10.000 euro, quindi come dire, c'è una disponibilità, quasi una mancia, no? 10.000 euro non sono pochi, ma certo non vale la pena di sporcarsi una reputazione per questo. Eppure evidentemente c'è questa disponibilità. Secondo te è una questione di, come dire, se c'è la corruzione, è uno dei problemi italiani a tutti i livelli, non è impensabile che le donne italiane ne siano esenti, no? È una questione ambientale? Allora, sicuramente c'è una questione ambientale. Io, di fronte ai primi casi, mi sono detto, vedi, l'Italia è cambiata, finalmente ci sono donne in posizione chiave, donne che sono importanti magistrati, donne che sono sindaci in comuni, giovani sindaci che promettono di rivoluzionare i comuni, donne che sono imprenditrici vincenti, donne che sono super dirigenti statali, e poiché ci sono, una quota di loro dovrà essere corrotta. Perché nel paese la corruzione ha i livelli più alti tra i paesi occidentali. Però ho cercato di informarmi da chi ne sa più di me e di studiare, e quando vuoi capire questi fenomeni ti devi rivolgere alla sociologia. Sì. I dati sociologici sul rapporto tra donne e corruzione, quella che gli studiosi anglosassoni chiamano la corruzione di genere, e sono abbastanza sorprendenti, perché appunto alla fine degli anni 90 si riteneva che le donne fossero l'arma finale contro la corruzione. Gli studi sociologici sul campo realizzati in città come Città del Messico, come Lima, ma anche in realtà minori occidentali, mostravano che più donne avevano incarichi di responsabilità, meno corruzione c'era. Che è un dato bellissimo. Consegniamo invece l'Italia alle donne, e le donne ci renderanno il paese migliore. Io continuo a pensare che una parte di verità curiosità in questo ci sia, ma invece tu che cosa a quali conclusioni sei arrivato? Io non dico che la sociologia poi ha affinato queste ricerche, ha detto attenzione, le donne fanno così perché sono più responsabili e rispetto a noi uomini, le donne hanno meno tendenza, soprattutto le donne che hanno una posizione, a assumersi rischi. E quindi cosa succede? In base a questo, se un sistema è sano, le donne saranno più oneste degli altri e meno disposte ad accettare la corruzione. Ma attenzione, se un sistema è corrotto e quindi le regole del potere non sono scandite dall'onestà ma dalla corruzione, le donne tenderanno a, per ritagliarsi uno spazio, a essere più dinamiche sul mercato della corruzione degli uomini. E la mia paura, alla luce della situazione italiana in cui la corruzione è forte, è che le donne di potere abbiano questa tendenza a voler primeggiare negli uomini o a difendere la loro posizione, perché in certe situazioni, se tu non sei corrotto, non hai speranza di fare strada. Un po' quello che era il racconto della polizia americana fatta da Seppico. E ho paura che nel caso della Dama Nera, nel caso di Lady Dentiera, ma anche nel caso della sindachessa che doveva imporsi la sua linea politica, la sua primavera politica in un territorio difficile come la provincia di Caserta, l'essere comunque protagoniste sul mercato della corruzione, stando alle accuse, potrebbe essere l'unico modo di dimostrare di essere più brave degli uomini. Cioè, per farsi prendere sul serio in Italia o giochi questa partita o ti emarginano, è questo. No, e quindi non lo dico io, lo diceva Piercamillo Davigo, che è uno dei migliori analisti del fenomeno, quando raccontava come in certe organizzazioni della pubblica amministrazione era impossibile essere onesti, perché se eri onesto non facevi carriera, entravi e rimanevi in quella posizione tutta la vita, perché il sistema dei corrotti non ti avrebbe mai permesso di avere una posizione chiave. Di questo parleremo tra poco proprio con i due esperti con i quali proseguiremo la puntata. È un visione inquietante e affascinante nello stesso tempo, e sono veramente grata a Gianluca Di Feo di averci aperto uno squarcio su cui si può dissentire, essere d'accordo. Adesso continueremo e ne parleremo anche con chi non è d'accordo, naturalmente. Però intanto grazie a Gianluca Di Feo, perché questa è una trasmissione che si chiama Nessuna è perfetta, e quindi tutte le imperfezioni vanno tenute in debito conto. Grazie al vice direttore di Repubblica, buona domenica. Grazie, buona domenica a voi. Grazie. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Nessuna è perfetta. Buona domenica e bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e come sempre questo è il momento della nostra Sunday Girl. E la nostra Sunday Girl di questa domenica è la presidente della Fondazione Marisa Bellisario. La presidente è Lella Golfo, lo sapete, è già stata ospite di Nessuna è perfetta. Lella Golfo è molto, molto arrabbiata perché nelle settimane scorse ha letto articoli che appunto davano una risposta, secondo lei, tranchant al fatto che le donne nelle posizioni poi di in prestigio, quando hanno del potere, si fanno corrompere esattamente come gli uomini. E però, Lella Golfo, tu ti sarai anche arrabbiata, ma quattro casi di zarine, di donne potenti, ci sono state, e per bacco se si facevano corrompere. Per carità, nessuno nega questo. Intanto buona domenica. Nessuno nega questo, però generalizzare con quattro casi di corruzione mi sembra un po' troppo. E i titoli dei giornali erano abbastanza pesantucci. Ecco, io ho inviato una lettera all'Espresso, che devo dire l'ha pubblicata, l'ho mandata anche al giornale, non l'ha pubblicata. Il giornale in prima pagina addirittura titolava Vittoria di Pirro, le quote rosa para gli uomini nelle tangenti. cioè, mi sembra francamente un po' pesante. Ma ecco. cosa pensi? Che c'è un tentativo di correre un po', di precorrere un po' i tempi e dire, ecco, vedete, le donne le mettiamo al potere e si comportano come gli uomini, allora non è vero che sono meno corruttibili? Ma io sono un po' amareggiata in tutto questo, e l'amarezza mi viene pure nell'uso del termine quota rosa, che, come tu sai, io ostinatamente ho sempre chiamato quote di genere. Allora, una battaglia che ha permesso a 2000 donne più di sedere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società italiane, cioè, mi sembra che questo è il problema. Cioè, tu dici è riduttivo. Adesso certo, si mette nello stesso calderone le persone che si fanno corrompere e il fatto che poi c'è una legge che invece mette delle persone di qualità nei consigli di amministrazione. È una legge che ha votato il Parlamento italiano, una legge di iniziativa parlamentare che poi l'hanno voluta tutti, e che l'Italia è balzata ai primi posti in Europa in temi di pari opportunità. Quindi secondo me questa è una scusetta, diciamo. Sì. Non vedevano l'ora, di poter dire, ecco, anche, cioè, poi la cosa anche che le donne. Che mi stupisce, io parlo con una giornalista, cioè, come dire, unite nella lotta contro le donne, due giornali che sono agli antipodi. Allora, Andreotti, come ricordiamo, diceva che a pensare male si fa peccato, ma spesso poi ci si indovina. E quindi la conclusione è che quattro donne non si può generalizzare, perché io vorrei ricordare anche le donne, e questo non lo ricorda nessuno, che proprio quando nei recenti scandali sono state veramente l'ostacolo al dilagare della corruzione. Certo, ci sono state donne che hanno denunciato loro per prime gli scandali. E tu ti ricordi cosa diceva Buzzi nelle famose intercettazioni? Basta che se ne va questa, non te riceve, non te parla. E poi c'è stato un altro assessore donna, Rita Cutini, cioè, che l'ha difesa lasciandola al suo posto perché questi volevano, insomma, alla fine che se ne andasse. Ricordiamo bene l'episodio, perché adesso non ho capito a che cosa fai riferimento. Allora, io faccio riferimento che in un convegno nostro di Fondazione Bellisario, proprio fatto al Senato della Repubblica, intitolato, che un po' abbiamo un po' anticipato questo tema perché era nell'aria, e l'abbiamo intitolato La corruzione non è femmina. In quell'occasione noi abbiamo chiamato Gabriella Cerbi, che era quella nell'intercettazione di Mafia Capitale, che veniva definita poco disponibile. E lei che ruolo svolgeva, Gabriella? La chiamavano che volevano proprio che lei doveva, come dire, far passare le tangenti, e lei è stata quella che l'ha bloccata. E questi dicevano, vedi, basta che questa se ne va, cacciamola, non ti riceve, quindi non li riceveva e non parlava con loro. Cioè, quindi questo è un esempio di donna veramente... Che fa la differenza. Ma sì, ce ne sarebbero tantissime da citare. Ce ne sarebbero tantissime, cioè, c'era anche, voglio ricordare anche, sì, le donne del Rosarno, sud, esempio Elisabetta Tripodi, ma anche tantissime magistrate donne che contro la corruzione hanno ingaggiato battaglie senza sconti. E anche contro la criminalità, per citarne una, la criminalità, Lucia Ielli di Latina, che si è ritrovata, anche lei si è ritrovata convegno, la camorra e i manifesti che annunciavano la sua morte. Però, per chiudere, però. E per essere obiettivi, come come è normale che sia, insomma, e come questa trasmissione pretende un po' di essere, a cominciare dal titolo, siccome nessuno è perfetto, il genere femminile di sicuro non lo è, certamente le signore che sono sotto inchiesta, la signora Accroglianò, la Lady Dentiera e tutte le, la magistrata di Palermo, Silvana Saguto, insomma, tutte queste signore che proprio recentemente sono state e sono sotto inchiesta, per carità. Che li dobbiamo condannare senza se, senza ma, per carità di Dio, proprio condanna assoluta. Però certo, condanna assoluta fino a sentenza, c'è sempre la presunzione, per carità, di innocenza. Però il punto è che i comportamenti illeciti, la seduzione del denaro non è una cosa che, come dire, vede per forza una barriera per cui gli uomini ci cascano e le donne no. Ci sono donne che si lasciano tranquillamente comprare, e questi sono i casi, almeno secondo, stando alle inchieste giudiziarie. Comunque io sono convinta che noi donne non è che siamo migliore o che siamo più pure degli uomini, però è innegabile che, che l'esistenza, che noi c'è una peculiarità femminile che ci rendono, insomma, meno inclina alla corruzione. Questo secondo me lo dobbiamo dire. E tra l'altro, in questo convegno noi abbiamo presentato una ricerca condotta da Alessandra Ghisleri. Ebbene, il 64,9% degli italiani pensa che l'ascesa delle donne al potere potrebbe migliorare lo stato generale della corruzione, mentre il 48% degli uomini intervistati, quindi uomini, dovendo scegliere a chi affidare la gestione dei fondi pubblici, a parità di competenze sceglierebbe una donna. Cioè, quindi, perché questo... c'è una propensione comunque, se non altro, a pensare al futuro, no? Perché, come dicevi, la caratteristica, no, delle donne è quelle che necessariamente proiettate come sono al futuro dei figli, sono portate anche a occuparsi del bene comune, forse in una visione di più lungo termine. E questo fa un po' la differenza. Comunque, come diceva Christine Lagarde, se Lehman Brothers fosse stata Lehman Sisters, forse avrebbero giocato un po' di meno con i soldi degli altri. Forse non ci sono prove a contrario. Certo. Grazie. Comunque. Grazie Lella Golfo per questa nostra conversazione della domenica mattina, e come sempre, e detto poi a una multitasking come te, la raccomandazione invece è di godersela un po' la domenica in relax. Grazie, lo farò, grazie. Buona domenica, grazie, Lella Golfo, grazie. Ciao, grazie. Si impara all'estero, l'importante è imparare ai migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia. Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori. A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È il momento delle vostre lettere, che tutte voi potete inviarci scrivendoci all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it. Di questa lettera vi diamo solo le sigle, perché è una persona che ovviamente non vuole in nessun modo essere identificata. Ho 53 anni e lavoro nell'area amministrativa di una scuola siciliana. Come in tutte le scuole pubbliche italiane, il numero di professori assegnati presso l'istituto per cui lavoro viene determinato sulla base del numero degli iscritti. Nel corso degli ultimi anni però si è registrato un considerevole calo degli studenti. Tuttavia, per non perdere cattedre e privilegi, mi è stato chiesto, piuttosto esplicitamente, di falsificare il numero dei ragazzi iscritti. Io, naturalmente, mi sono rifiutata. La conseguenza? Sono stata isolata e sovraccaricata di compiti. Cosa dovrei fare? Denunciare il caso? Ma così potrei perdere il lavoro. Questa è una lettera che vi dà l'idea di quello che dicevamo poco fa con il nostro agente provocatore di questa domenica, col vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo. È un po' una condizione ambientale dove persino in una questione come che potrebbe sembrare davvero inattaccabile, no? Come quella la dimensione scolastica, ecco, persino lì si instilla il tarlo, no? Dell'aggiustare le cose, della corruzione. È una dinamica che, come tristemente sostengono anche i sociologi, lo citavamo prima con Di Feo, è una dinamica veramente ambientale. Allora io do davvero con piacere la parola ai due esperti di questa settimana che ci aiuteranno a rispondere alla lettera, al caso che viene posto e anche alle cose che ci siamo dette in questa puntata sul ruolo che le donne stanno avendo anche nei casi, nelle inchieste di corruzione. Buona domenica, Mariangela Zaccaria, vice segretario generale vicario del Comune di Milano. Nel 2013 ha ricevuto il premio Giorgio Ambrosoli per essersi distinta nella tutela dello Stato di diritto in ambienti e contesti critici. Buona domenica, Mariangela. Buona domenica a voi. Buona domenica, Virginio Carnevali, presidente di Transparency International. Allora, la prima cosa che voglio chiedervi è, dicevamo prima con Gianluca Di Feo che citava anche la sociologia, il fatto che le donne, che sono sempre state portate ad esempio, no, di una maggiore fermezza, una maggiore capacità di resistenza alla seduzione della corruzione, ebbene adesso da Antonella Crognanolla, dama nera degli appalti, a Maria Paola Canegrati, la zarina delle dentiere, alla sindaca di Maddaloni, Rosa De Lucia, alla magistrata Silvana Saguto di Palermo, ecco, stanno diventando protagoniste anche loro. La teoria di Feo che vi sottopongo è che le donne si adeguano al contesto nel quale vivono. Allora sono le più oneste e le più ferree se il contesto è di grande onestà, no? Per esempio nei paesi scandinavi la percentuale di corruzione è molto più bassa e le donne in questo sono inflessibili. Ma se il contesto è quello che purtroppo è quello italiano, allora si adeguano anche loro a un contesto che è quello della corruzione. Siete d'accordo, Virginio Carnevali, Mariangela Zaccaria? Beh, io non sono d'accordo perché non è il contesto che fa l'onestà delle persone, il contesto fa emergere l'eventuale disonestà delle persone, perché se una persona, io lo dico sempre, i politici, noi vediamo i politici sono corrotti, non è che nascano corrotti o diventino corrotti quando sono politici, evidentemente erano già disonesti prima, quindi queste donne evidentemente erano già disoneste prima, ma il contesto non gli permette di essere disoneste. Quando il contesto ti permette di rubare, rubano, e allora vuol dire che non è che diventano disoneste, lo sono già ma non lo sapevano, o quantomeno non potevano. Mariangela Zaccaria, rispetto a quello che appunto si diceva, le donne sono oneste se il contesto è onesto, se invece non lo è, anche loro si adeguano. Il Comune di Milano in questi anni è riuscito a evitare inchieste giudiziarie e non è stato sfiorato da indagini, almeno al momento. Quindi la teoria del sociologo che ho citato prima, ti trova d'accordo o no? Guarda, no, non mi trovo d'accordo. Io prima di tutto vorrei riferire un po' un'indagine che è stata fatta da ANAC, quindi dall'autorità nazionale, che per i reati di concussione attualmente vede il rapporto 14-1 uomo-donna, per i reati di corruzione 10-1, per corruzione in atti d'ufficio 9-1 e per corruzione in atti giudiziari il rapporto 8-1. Quindi le attuali indagini e le attuali ormai sentenze definitive, questo è il rapporto che vi ho dato. Quindi attualmente, al di là di casi sporadici, questo è il dato di fatto. Poi devo essere anche onesta che... questa è la puntata sull'onestà, se non siamo onesti oggi. Se devo essere anche onesta, l'atteggiamento delle donne è un atteggiamento che più che per la corruzione hanno propensione a un fattore sociale più alto degli uomini. Quindi quando lavorano nella pubblica amministrazione sono emotivamente più vicini ai problemi sociali. E questo credo che si contrapponga un po' alla natura che prima dicevi del contesto sociale. Ecco, la situazione che ci è stata raccontata nella lettera che avete sentito mette di fronte a un tema che vale in tutti i casi di corruzione. Denunciare la pressione che si è ricevuta, in questo caso l'idea di falsificare il numero dei ragazzi iscritti per mantenere i privilegi che la scuola ha, ma vale lo stesso per cose ben più gravi e ben più importanti. C'è il timore di perdere il posto di lavoro. Allora, in questo caso, che cosa vi sentireste di dire alla persona che ci ha raccontato questa storia? Virginio Carnevali e poi Mariangela Zaccaria. Beh, premesso che per un dipendente pubblico c'è un obbligo di legge di denunciare un reato. Quindi c'è un obbligo, indipendentemente dalle questioni morali, il dipendente pubblico ha un obbligo legislativo di denunciare un reato. Quando c'è un fenomeno che si qualifica come reato, l'unica cosa è la Procura della Repubblica. È certo che poi c'è sempre il dubbio e c'è sempre il rischio che possa costare qualcosa. Ma d'altra parte io credo che sia un rischio che nella società civile si debba prendersi. Beh, adesso però c'è anche questa novità del whistleblowing, cioè la possibilità di denunciare e di essere protetti. Raffaele Cantone ci ha raccontato di alcuni casi che stanno andando a buon fine, in cui per esempio il professore di una nota università ha denunciato i casi di corruzione legati ai soliti, diciamo, privilegi dei baroni e si sta procedendo, mentre la sua figura professionale è stata totalmente protetta. Quanto funziona e quanto potrà funzionare il whistleblowing? Molto, molto brevemente, Carnevali. Beh, diciamo che siamo molto agli inizi in Italia con il whistleblowing. È appena passata alla Camera una legge direi abbastanza ben fatta, non è perfetta ma abbastanza ben fatta, non è ancora passata al Senato, quindi non è ancora legge, speriamo che non la rovinino al Senato. Però in Italia attualmente il whistleblowing non ha una tutela determinata e specificata dalla legge, è chiaro che ci sono tanti altri modi per tutelarlo indipendentemente, però una legge specifica per il whistleblowing non c'è, è in corso di approvazione. Mariangela Zaccaria, ti è mai successo di subire pressioni lavorando in un'amministrazione importante come quella del Comune di Milano, col ruolo che poi hai di vice segretario generale? Immagino di sì. Guarda, devo dire la verità che io pressioni non ne ho mai subito, ma forse le pressioni li subisce chi dà la percezione di poterli subire. Quindi l'integrità e la trasparenza che connota una persona difficilmente può metterla in condizioni di poter subire pressioni. E come dicevamo prima, in realtà il problema della corruzione non è che la corruzione è un fungo, alla sera non c'è, alla mattina compare. La corruzione ha un ambito, un substrato, un'ambientazione, dei collegamenti che crescono di giorno in giorno. Allora, quello che io dico e che faccio sempre è quello che bisogna avere la capacità di non di denunciare le anomalie procedurali, la mancanza di controlli, perché la corruzione non nasce dal niente, insomma, la corruzione ha bisogno di una rete di collegamenti, di situazioni, quindi prima di arrivare alla corruzione siamo obbligati a prevenirla, e quindi il modo per prevenirla, quello sì, è quello di anticipare e avere l'occhio lungo su alcune situazioni. Ecco, volevo dire una cosa anche. Nella lettera che abbiamo citato prima, questa persona che ci ha raccontato questa storia racconta di essere stata isolata e sovraccaricata, esatto, di compiti. È così, il sistema funziona così: se non ci stai ti isolano e non ti fanno più far niente. Sì, guarda, nel pubblico ovviamente il rischio di licenziamento è ovviamente inferiore, e il rischio ovviamente è quello di licenziamento o quello di essere sovraccaricato, ma è per quello che è fondamentale la costruzione di una rete tra persone per bene, la costruzione di legami e soprattutto di la necessità di parlare sempre di questi argomenti in maniera che le persone sappiano a chi possono rivolgersi. Per questo ti posso fare gli elogi per questa iniziativa, perché per non essere isolati bisogna che la gente sappia che c'è gente come noi a cui si può rivolgere e parlare, e poi sai, parlare è il primo modo per sconfiggere la corruzione. E infatti noi siamo ben contenti di averlo fatto questa domenica qui a Nessuna è Perfetta. Io vi ringrazio, ringrazio Virginio Carnevale, presidente di Transparency International Italia, ringrazio Mariangela Zaccaria, buona domenica a voi e noi ci sentiamo tra pochi secondi. Pantera Millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta Nessuna è Perfetta. Eccoci, bentornati all'ultima parte della nostra puntata, e vi ricordo che se non siete d'accordo con quanto abbiamo detto potete scriverci una mail a nessunaeperfetta@radio24.it oppure un sms al 349-238-6666, commentate anche su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta o sulla nostra pagina Facebook. Ed è il momento della nostra coach, bentornata Maria Serena Ciambellotti di Lares Consulting, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Questa volta a scriverci è Martina. Ho 35 anni, un marito, una figlia. Sono avvocato e sto curando, apparentemente con grande successo, un importante business per la mia azienda. Di recente ho scoperto che i miei pari grado sono pagati più di me. E poiché devo ridiscutere il mio contratto, ho deciso di dirlo al mio capo. Faccio bene? Giorni fa sono stata anche contattata da un'altra azienda, concorrente, e ho deciso di andare comunque al colloquio, anche se non mi trovo male dove sto. In sede di rinegoziazione del mio contratto, devo dire o no al mio capo che avrei anche un'altra offerta? Martina. Quali sono gli errori da evitare in una negoziazione? Allora, il primo, che si trasferisce proprio nei corsi sulla negoziazione, è quello di uscire dalla logica di protagonista e quindi non arrivare in negoziazione, non prepararsi quindi alla negoziazione, concentrandoci esclusivamente su quelli che sono i nostri obiettivi, e quindi avere cura di conoscere ciò che il nostro obiettivo propone, in che cosa il nostro obiettivo si traduce in termini di vantaggio anche per l'altro, e come indicatore di riuscita di questa posizione il calcolare proprio circa un buon bilanciamento di tempo tra parlare e ascoltare, quindi dare importanza all'altro, fare domande, ascoltarlo per poter poi presentare le proprie richieste